lascio la Michele. Vai, Michele. Sì. Beh, Miguel Martinez, sono sostanzialmente un genitore che si è trovato, che portava i figli a quella, a una biblioteca che era laggiù, e da cui parte un po' tutto quello che è successo qui. Nel senso che stavo spiegando prima che questo qui era innanzitutto era l'orto dei Carmelitani qui dietro, poi è stato preso da uno scultore, Emilio Santarelli, nell'Ottocento, che ci sono anche delle coltivate le camelie, tra l'altro esistono anche delle specie di camelie, la Bella d'Ardiglione e la Santarelli, quindi sono proprio delle specie che si chiamano in onore di questo giardino. E poi nel 1920 questo posto è stato comprato dalla Croce Rossa Americana per farne un centro per l'educazione popolare con speciale riguardo all'infanzia, che spiegavo questa storia curiosa che nessuno a partire da me conosceva, cioè la storia, cioè il grosso ruolo che ha avuto la Croce Rossa Americana nella Prima Guerra Mondiale qui in Italia e l'enorme quantità di opere sociali che hanno fatto che sono completamente sparite, come questa anche, no? Questa è una di queste opere sociali. Questa è stata affidata affidata alla famiglia Nidiaci, che era un notabile, diciamo, fiorentino, che durante la Prima Guerra Mondiale organizzava tutti i progetti assistenziali. Questo era un centro anche di profughi, cioè decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di profughi a Firenze venivano dal Veneto. E in più c'era da assistere le vedove, le mogli con i mariti lontani, gli sfrattati, perché approfittavano ovviamente dell'assenza del marito per sfrattare la moglie all'epoca. E quindi questa famiglia ha avuto in gestione questo spazio, diciamo, all'epoca era molto poco documentata la cosa, diciamo, cioè i documenti sono un po' poveri, diciamo. Comunque era in mano loro, proprietà loro, questo posto, ma per farne questo centro di educazione popolare. Infatti hanno fatto la palestra laggiù, hanno fatto la scuola elementare lì, con sopra case per gli anziani, case popolari, diciamo, case per gli anziani. Qui c'erano le serre e poi dopo, negli anni 50, hanno fatto proprio la donazione della maggior parte di quest'area al Comune di Firenze. Per cui, diciamo, fino a un certo punto è sicuramente del Comune di Firenze. Di là era in pratica del Comune di Firenze, o comunque veniva usato solo per cose sociali. La famiglia Nidiaci nel 2012 si trova in grosse difficoltà economiche, viene pignorato il palazzo che c'è laggiù, e c'era un signore che è venuto da Napoli che vendeva pubblicità per il Corriere Fiorentino, tipo, non so, puoi mettere la tua gelateria, la pubblicità, eccetera. Si è stufato di fare questo mestiere e si è comprato 15 palazzi storici di Firenze. Ci guadagnava bene, cioè, sì, la gelateria. Corriere Fiorentino. Allora, i miei figli andavano alla biblioteca, cioè io li portavo lì, il bambino piccolo, alla biblioteca laggiù. Allora, a un certo punto i suoi operai hanno spaccato il tetto da sopra, hanno riempito questa biblioteca tonnellate di acqua, a che è diventato inagibile, il comune ha chiuso a chiave da fuori, lui ha chiuso a chiave da dentro, e ha cominciato a vendere tutti gli appartamenti lì, facendo appartamenti di lusso. Appartamenti di lusso, diciamo, noi abbiamo una fortuna, che dopo siamo diventati amici, a mano a mano di tutto quello che compravano da lui. Perché noi andavamo a fare, siamo dalla stessa parte vostra quando siamo qua. E ad esempio c'era una famiglia che prova a accendere, cioè l'appartamento, non so quanto hanno speso, la famiglia iraniana, molto carina, che hanno speso una barcata di soldi per comprarsi l'appartamento, poi prova a accendere la luce, non succede niente, chiamano l'elettricista stacca la placca sotto, e non c'era niente sotto, non c'era impianto, no? E ha fatto tutto, diciamo, tutto un sistema così. Allora, chiusa la biblioteca, noi abbiamo fatto tante manifestazioni di protesta, cortei, eccetera. Noi gli abitanti del quartiere, sì, infatti, eravamo una cosa molto, molto spontanea, diciamo, le famiglie, i genitori, insomma, quelli che delle scuole elementari. Abbiamo fatto questi cortei, poi hanno aderito anche altri, ma eravamo noi a organizzare questa cosa. E alla fine ci è stato suggerito, fate un'associazione, vi diamo le chiavi. Abbiamo fatto un'associazione, copiando quella di San Jacopino, che era appena nata. Stiamo parlando degli anni? 2013. E è successo tutto in quegli anni lì? 7 maggio 2013, pazzesco. Sì, anche Via del Leone hanno occupato quei giorni. 7 maggio 2013 ci hanno dato le chiavi e da allora noi teniamo aperto questo spazio. Abbiamo fatto nel 2021. Ma quando vi hanno dato le chiavi, scusa se siete dopo, c'era una forma scritta? Sì, allora cosa, no? C'era una convenzione, si è fatta una convenzione con cui la direzione ambiente firmava il nostro diritto di aprire questo posto, cioè aprire e chiudere questo posto e tenerlo pulito sostanzialmente. Senza un guardiano mandato. Esatto. Eravate voi i guardiani. Sì, eravamo noi i guardiani, noi responsabili, diciamo, se succede qualche cosa, dovevamo fare un'assicurazione. Ah, ecco. Sì. Ok. E poi questa convenzione, tra l'altro, a un certo punto è scaduta e si sono dimenticati di noi per 3 anni. Noi abbiamo potuto aprire, questo poteva dimenticarsi di noi. E poi alla fine abbiamo fatto un patto, un patto quadro, perché questa è una situazione molto strana, nel senso che qui dipende dall'ambiente perché è un giardino, dall'istruzione perché è un luogo, è una pertinenza scolastica è considerato, in quanto luogo destinato all'infanzia. E poi è anche le politiche giovanili, perché qui c'è il centro giovani, anche il patrimonio non abitativo, perché sono palazzi e questi non parlano tra di loro. E quindi si è assessorato. Esatto. Quindi abbiamo fatto un patto quadro con la direzione ambiente, patto quadro dentro cui poi si devono fare tutti i singoli patti con le singole direzioni. Ma questo con il regolamento comunale sui beni comuni o a parte? Sì, sì, sì, con quel contesto lì, infatti. E quindi alla fine abbiamo qualche cosa di scritto di questo tipo. Poi abbiamo avuto adesso, quindi lo spazio è gestito da un'associazione, che è l'Associazione Giardino dell'Ardiglione, APS ETS, Associazione di Promozione Sociale in Terzo Settore. Vabbè, voi lo sapete tutti, sì, sì, non c'è bisogno, di solito c'è bisogno di spiegarlo, con voi no. E con, diciamo, questa quindi ha la sua assemblea, il suo direttivo, presidente, eccetera, che è cambiato adesso. Prima c'era Valentina Casadei, adesso è Fabrizio Valleri, che è anche allenatore dei Bianchi. Quindi il calcio storico. Calcio storico, sì, infatti, il Ballero. E quindi io sono segretario dell'associazione, poi c'è tesoriere, vicepresidente, insomma. Allora, io vi faccio un giretto di qua, così vi faccio vedere almeno questo spazio qui. No, e poi io due altre cose. Io sono amico tuo, ma... No, no, ti presento. Ah, non mi sono presentato. No, vero, no. Siamo fermati qua perché cominciamo a spiegare. Jason Nardi, vi presento Jason Nardi. Abitante di Firenze. Ma scusa, Gesù, sì, Gesù, ma se capita qualche cosa, la manutenzione straordinaria è appannaggio del comune. Sì, certo. E quella ordinaria? Quella ordinaria e la cura minima del verde, cura minuta del verde, che si chiami, è nostra. Cade un albero? Cade un albero, prende del comune. Cade un bambino che sta male, però è nostra. Avete anche ristrutturato queste parti? Allora, questo qui è una, questo è uno spazio, allora... Qui c'erano delle, ciao, qui c'erano delle casette un po' diroccate, le bicocche, ho imparato a fare bicocca qua, che era dove la custode di questo posto abitava nel, diciamo, negli anni 80-90. Poi il, diciamo, il signore simpatico di là ha pagato, ha messo da parte dei soldi che erano, non erano tanti, erano 250.000 euro, una cosa del genere, per potersi perdonare tutto quello che faceva di là. Allora, gli hanno perdonato tutto quello che faceva di là, ha messo i soldi e i soldi sono stati investiti di qua per costruire questo spazio, che è stato fatto da Mario Pittalis, che è l'architetto del comune, che è una persona fantastica, cioè fa delle cose straordinarie, e quindi vedete qua. Qui abbiamo un sì, purtroppo sporcheremo. Sì. Non c'è niente da fare. Anche poi sì, no, anche perché fuori poi si pulisce. Però spogliatoio per il campo di calcio. Uh-huh. Il campo di calcio c'è la squadra del Lebowski che sapete fare la scuola gratuita di calcio per i bambini del quartiere. Poi piccola ludoteca qua. Oh Franci! Ciao! Ciao! Sì. Sì, ho il problema di avere la voce qua. Eccoci. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Avete litigato? Non ci si dà di qua. No, stanno arrivando le lettere. Adesso faccio vedere un attimo qua. Ok. Venite di qua, vi faccio vedere però. Uno, due, volete giocare? Ci sono i mangi, se vi servono. Io sono qua, Ciao, buonasera, io sono Francesca. Ciao. Ciao, ciao Francesca. Ciao, ciao Roberto. Ciao. E Jason qual è? Jason è lui. Ciao. Non lo conoscevo. Di nuovo, si chiede un contributo a chi fa, cioè famiglie fanno le feste qua, che serve anche a fare le pulizie, eccetera. Questo è una cosa. Ma questa è retta a tutti, sì. Chi la vuole approfittare. Allora, diciamo, non è possibile contentare tutti, tanto è sempre mondeggi, poi detto, li abbiamo richiusi di là oggi perché c'è un'attività qua oggi. No, è futuro, magari. Sì, no, certo, sì, lo spazio. Non è interessante da utilizzare. No, certo. Centralissimo. Poi abbiamo qua il piccolo ufficio, diciamo, che la direzione. E adesso scappiamo perché dobbiamo fare posto alle... C'è tanto mondo di suo. Andiamo, sì. All'altra attività. E anche Le Boschi alla sua cooperativa, alla sua associazione. Esatto, sì, sono in realtà autonome, no? Ma allora, come vi coordinate tra di voi? Allora, il Centro Giovani è una cooperativa che ha vinto un appalto da parte del Comune di Firenze per gestire tutto questo spazio qui. E per le ragazze dagli 11 ai 18 anni, quindi medie e superiori, e facciamo raccontare un po' da loro. Comunque, mentre noi siamo autogestiti, auto eccetera, loro sono sotto il comune. Che però, diciamo, per anche complementare, se volete. Cioè, Mondeggi mi sembra che sia un po' una comunità di scelta, nel senso che sono delle persone che si sono interessate in qualche modo a queste iniziative, hanno deciso di parteciparvi e condividono in partenza tante cose, diciamo. Mi sembra, ho questa impressione, diciamo, no? Qui invece il punto di partenza è vivere nel stesso quartiere e avere, noi dice, diciamo, la spinta principale, avere dei bambini che andavano a scuola. Quindi questo vuol dire che hai una parte della situazione molto trasversale in cui quello che conta sono sempre cose pratiche, diciamo, cose pratiche da fare, non ti poni troppo, diciamo, la visione del mondo nasce nella pratica, nel senso che scopri che puoi condividere, scopri che puoi fare delle cose insieme, scopri che ognuno può contribuire con il proprio talento, con qualche cosa, lo scopri facendo la strada, diciamo, facendo esperienza. Significa anche in negativo che le persone che si danno da fare sono una minoranza, cioè tu hai una grande maggioranza di frequentatori, di genitori che frequentano, portano il bambino qua, poi se ne vanno a casa. Hai un buon numero di persone che hanno le chiavi per aprire e chiudere, si assumono le piccole responsabilità e poi hai un gruppo ancora più ristretto che fa il mazzo, diciamo, no? In tutti i sensi, magari gli altri non si interessano nemmeno tanto di come funziona il meccanismo di tutto questo, cioè si trovano aperto un giardino, diciamo. E questo ha portato un po' anche a una tendenza, diciamo, a volte a diventare un po' tipo la... diciamo, il posto delle mamme su WhatsApp, diciamo, no? In quel senso. E adesso noi stiamo cercando invece di portarlo a lavorare in rete con tante cose che ci sono qui nel quartiere. In questo abbiamo due punti di riferimento forti, che sono la rete di azione di San Prediano per San Prediano e il calcio storico, cioè i bianchi di Santo Spirito. Quindi sono due cose molto radicate. Rete azione di San Prediano per San Prediano si riunisce alla parrocchia, non è una cosa cattolica in quel senso, cioè non sono in realtà necessariamente cattoliche, ma lì c'è stato il parroco precedente molto aperto, ha detto venite tutte, cioè potete venire qua tutti quanti e fare le vostre riunioni insieme. E quindi lì abbiamo messo, cioè siamo entrati molto più anche nel sociale, come si dice, cioè lì ci sono centinaia di famiglie che ricevono assistenza perché non c'hanno da mangiare, cioè qui lavoriamo. E allo stesso tempo anche su altri spazi che ci sono qui nel quartiere, ci sono altri, e proponiamo quindi delle cose che riguardano tutto il quartiere. Quindi questa è una caratteristica. Altra caratteristica importante, molto distintiva, è questo, che se tu, allora, come Firenze, sei interessato ai fatti, la gestione, l'amministrazione condivisa, e dici, finalmente abbiamo qualcuno che tiene pulito i giardini a costo zero per noi, giardini pubblici. Allora, Piazza Tasso, ad esempio, c'è un giardino pubblico. Solo che se tu ti hai pulito, il giorno dopo trovi di triplo delle cartacce. Se tu pianti un alberello, lo trovi diventa calci. Perché è la solita cosa della legge di Harding, no? Quello che parlava del, usando male, diciamo, i termini del commons. La, no? Cioè, la tragedia dei... La tragedia dei beni comuni, diciamo, la tragedia dei commons. Cioè, che in realtà il posto che non è custodito, che non ha dei limiti di qualche tipo, è un posto che viene sfruttato e distrutto. E questo è il grosso problema di tutte le attività di questo tipo. Allora, noi cosa abbiamo provato? E, diciamo, quindi, l'alternativa sarebbe privatizzare i posti. Cioè, se questo qui fosse la sala mostre, la sala che sono passeggiate di Gucci per fare le sfilate di moda, sarebbe pulito, sarebbe tutto in ordine del posto. Beh, abbiamo vari esempi, comunque. Abbiamo giardini turigiani, abbiamo... Sì. Anche qui, voglio dire. Infatti. Quindi, noi, diciamo, come abbiamo spezzato questa polarità? Questa forse è una cosa più interessante che abbiamo fatto. Allora, abbiamo trovato che nell'atto di donazione del 1954 c'era scritto che quest'area veniva data in per uso esclusivo e per sempre dell'infanzia. Allora, cosa ci fai con questa, dato per l'infanzia? Cioè, è dato al comune, ma per l'infanzia. Allora, la prima cosa è che diciamo, questo è uno spazio riservato ai bambini. Se riservato ai bambini, è una pertinenza scolastica. Se è pertinenza scolastica, valgono le regole che valgono, diciamo, c'è una legge sulle pertinenze scolastiche di qualche anno fa, e che dice, ad esempio, che vietano fumare in questi spazi. Oppure di non si può ubriacare, non si possono fare. Possono fare serie cose. Allora, cosa ci serve questo? Non è che ci serve per escludere mondeggi che vengono fatti, nessuno di voi credo che abbia meno di 11 anni. Allora, serve per un'altra cosa, dire, bene, questo è un fatto riservato ai bambini, in cui possiamo imporre delle regole. Ma è aperto a tutti i bambini, quindi non è privatizzato. E aperte gli accompagnatori dei bambini, perché i bambini non possono venire da soli, quindi a tutte le famiglie del quartiere praticamente, chi pur che stiano sotto, accettino le regole, e a chi fa attività che riguardino in qualche modo i bambini o le famiglie. Cioè, ad esempio, un gruppo che viene a studiare come si fa questo, un gruppo che fa yoga per i genitori, un gruppo che fa yoga con le nonne dei bambini, diciamo, anche se i bambini non ci sono. E praticamente significa che si possono imporre, cioè c'è una scusa, diciamo, formale, un pretesto formale che ci permette di imporre delle regole che non dobbiamo quasi mai imporre, però non diventa Piazza Tasso. E quindi se qualcuno pianta un albero qua, è tranquillo che nessuno glielo sradica, e quindi ha piacere di farlo, e quindi lo contribuisce a tutti. Non diventa Piazza Tasso, anche perché qui a un certo ora si chiude. A un certo ora si chiude, esatto, sì, ci vogliono i chiari, infatti. Ecco, questa mi sembrava la cosa più importante da dire. Interessante.